prende il telefono quando sentiamo. Ah, tutto molto froscio il tuo cazzo che non sei altro. Froscio! Grande bagazzo, mamma tua, che ti dà. Hai capito che da stanotte ti può morire di telefonata a casa tua? Tutto froscionato! Froscio! 24 3 3 6 4, vedi, lo dico a tutta la frequenza, 24 3 3 6 4, famiglia Sanna, abitante via Bottego numero 3. Sei tu, me lo hai capito che sei tu, eh? T'ho conosciuto adesso, sempre che parla a voce bassa, porco froscio e drogato. E baracchino, do il numero 2 di terra, in modo che rompne il coglione a tua madre, perché devono rompere il coglione a tua madre. 24 3 3 6 4. Coglione, e ti faccio schiattare a te, a quella grande bagaglia, mamma tua.